con Annalisa di Anticordone, che è una delle componenti della struttura Ugo, che presenta il volume 7 al Monk venerdì 16 novembre prossimo. Annalisa, ben trovata. Ben trovato Federico, ciao a tutti. Sì, sono molto contenta di presentare questo nostro esordio autunnale, quindi diciamo una prima autunnale in un locale prestigioso quale il Monk, che comunque a noi fa molto piacere il nostro debutto autunno barra inverno al Monk. Collezione autunno-inverno. Collezione autunno-inverno con un cast super nutrito, eccezionale, pensiamo saremo tantissimi, mi andrebbe di presentarle. Ci sarà Michela direttamente dalla TV delle ragazze, Michela Giraud, Valeria Bellardelli, Cristiana Vaccaro, le No Choice con le loro una filastrocca un po' black, un po' noir, cantata e musicata. Poi ci sarà Francesca Stascia, Carmen Barbieri, Cristina Pellegrino, Veronica Raimo, Paola Michelini, Betta Cianchini, Enrica Tesio e io Annalisa Cordone, insomma, e Arianna Dell'Arti. Gruppo nutritissimo. Un bel gruppo numeroso e dai, io direi di venirci assolutamente a vedere, ecco. Senti, per chi non conoscesse, ripetiamo rapidamente la formula, Ugo. Ugo è un collettivo, quindi costituito da tutta una serie di, diciamo, cioè una sorta di direttivo, è nato da sei persone, che siamo io, Francesca Stascio, Paola Michelini, Arianna Dell'Arti, Cristiana Vaccaro e Cristina Pellegrino. Si è esteso a delle altre autrici e attrici autrici, quali Carmen Barbieri, Veronica Raimo, Valeria Bellardelli, Nicole Balassone e moltissime altre. Quindi vede ogni volta una formazione diversa sul palco con testi inediti e attrici barra autrici sempre diverse. Quindi si propone, diciamo, un repertorio brillante barra comico, ma anche un po' drama, e a noi ci piace definirci anche così, quindi anche un po' drama e con un pezzo sempre musicale inedito per ogni volume diverso, per ogni sezione diversa. C'è anche un minutaggio indicativo per ogni esibizione. Diciamo che un pezzo dovrebbe durare tra i 5 e gli 8 minuti, a volte sfora, però insomma sì, fondamentalmente è massimo 10 minuti un pezzo, 8, 10, dai 5 diciamo agli 8, 10, ecco. Sì. Ed è preceduto in genere anche da un momento conviviale, vero? In che senso? C'è un aperitivo in genere, non so Ah no, se. sì, a Radio Rock facevamo sempre questo aperitivo, anche al Monk ci sarà la possibilità di fare l'aperitivo, ma viene inaugurata anche la cucina, quindi ci sarà la possibilità anche di mangiare delle cose sia prima che dopo lo spettacolo. Lo spettacolo inizia alle 9, massimo 9 e un quarto, durerà circa appunto un'ora e qualcosa, un'ora e 20, un'ora, cerchiamo di mantenerci tra l'ora e un quarto, l'ora e 20, ecco. Senti, per questa nuova stagione ci saranno delle scadenze, stabilite, nel senso mensile o bisettimanale? Come Noi funzionerà? facciamo sempre, abbiamo considerato che il mensile per noi è la formula migliore, anche perché ci dà la possibilità di creare ogni volta con un po' più di attenzione il tipo di serata, perché come tu ben sai è una serata con una formula che prevede pezzi diversi, quindi comunque anche assemblarli, trovare la Sì. giusta, diciamo il filo rouge tra un pezzo e l'altro comunque richiede un po' di tempo. E poi perché ecco, ci sembrava giusto come per non sovraesporci né sottoesporci, ecco, ci sembrava un giusto equilibrio quello di farlo mensilmente. Per adesso i tuoi appuntamenti certi sono questi del 17 novembre e dell'8 dicembre al Monk, e poi vediamo un po' anche la risposta del pubblico, come andrà. Noi siamo sicure che andrà benissimo, però c'è tutto. Ugo è una formula in divenire, non abbiamo mai risposte certe, ecco. È esplorativo come tipo di percorso. E comunque per queste prime due date la residenza sarà il Monk. Assolutamente sì. Noi Ok. poi in prospettiva abbiamo proprio quello di restare al Monk, però vediamo Vediamo intanto come va. queste date, ecco. Siamo simili. Beh, anche Radio Rock era iniziato che dovevamo fare una puntata e siamo rimasti un anno a Radio Rock, quindi. Allora ricordiamo Ugo volume 7 al Monk venerdì 16 novembre. Un saluto e un ringraziamento ad Annalisa di Anticordone. Annalisa, un abbraccio e a presto. Federico, grazie, mi raccomando venite. Un abbraccio. Ciao. Sì, grazie Federico, grazie, ciao.